C'è qualcuno? Attento Mario. Mi ascolti Mario? Marchisio, buonasera, ben alzato. Buonasera Marino. Sto chiamando Mario, vedere un po'. Aspetta un attimino se mi risponde. Mario? Non arrivo, dal monte non arrivo a qua. Mario? Che tuo genero, Bacchi? Eia. Attenzione Mario, quale sta utilizzando, Bacchi? Chiamerà Maria, se lo dica. Oia, e beh, come va la cosa? Tutto ok, era un ascolto, qualcuno è in FM, sto modulando su 10. Ma non è, stavo leggendo le favole di Pinocchio, no? No, Pinocchio non è entrato ancora. Bellami quelle fotografie. Un po' presto. Adesso le favole. Mi piace, no? Guarda, guarda che è entrato, signor attore. Buonasera, signor attore, ben alzato. Ti è piaciuto Pinocchio, sì? Uno dei 10 viaggi è burro. E non sarai tu, no? Tu sei Pinocchio, sì. Non Pinocchio, scusa, Pinocchio. Signor attore, ben ascoltato. Cascio la resta di cose che ti ha mandato tu. Una serie di Pinocchio mi ha mandato. Ti ha giudito io, dove? Non ho più gridi. Andiamo, buonasera signor Bacchisio. Niente, mi devo dimandare che cosa più bella, no! Cose di Pinocchio, cosa me ne faccio? Viaggio burro, viaggio, chi? Uno di chi? Oh, se vuoi ti mando una cosa bella, ma tu mentre gli ho mandato nulla, queste cose, e non ti mando nulla. Mi hai detto di mandartene, e adesso vuoi quelle cose belle. Vuol dire la domani mattina ti mando cose belle, avanti ti... Ma chi? Ehi, ragazzi, ho capito, Torre, non mi piacciono i Pinocchi. Io non ne avevo, e dunque ce l'ho a Pinocchio anch'io adesso. Torre, ce l'avevo a doppio Pinocchio. No, ve l'ha già ancora, signor Bacchi, non l'ha già cancellato. Ce l'ho ancora. Ma Giovedo mi ha mandato una fotografia con 5 di Pinocchio. E io ne ho uno. Cante uno di chissi. E quanto è grande, guarda, il più grande. Vengo qua stanza, il più grande. E poi vanno a scalare. Siete sopra modulate, due signor Bacchisio, me l'hai gazzeggato, mirai. Esagerato, scusa Bacchi, ti ho detto che il più grande è 80 centimetri, 80 d'altezza. E da 80 a scendere. Avanti signor Bacchisio, scusi Ehi, vediamo se Mario è all'ascolto. Mario, fatti un colpo. No, niente, adesso lo chiamo. Adesso gli rompo i piedi col telefono, vedrò un po'. E speriamo che non arriva, che lui è in alto, Bacchi. Ehi, in alto, sai dove è, via Sulcis. Hai già capito dove sei. Appunto, bisogna vedere perché è in alto come zona. E allora, signor attore, che mi dice? Allora, io ho quella da 30 centimetri. E là sono belli comunque, stiamo scherzando, sono belli come cosa, là. Poi ce n'ho uno 20 centimetri, il colore del legno chiaro. Ah, ok, ho capito. Ne hai uno o due ne hai? Uno è, mi pare che sia rugoso. Mi pare che sia, l'altro è tutto in legno chiaro. E c'era un amico, l'ho vista a casa sua, legno chiaro, sì, ho capito. Ho capretto, signor Tore, ho capretto, avanti. Quelli vanno, un domani vanno di valore, vanno, hai compreso? Ecco che non si era giurampati. La tua mamma me l'ha regalata la settimana scorsa, ne avevo una di mia figlia, vabbè ce l'ha, ce l'ho già quasi 36 anni, ce l'aveva al monte, adesso ce l'abbiamo qua, adesso sta usando per mio nipote, e sempre tipo quello lì. Questa qua me l'ha regalata una signora di via Tolitano, un orificio di Aresta che ha chiuso, mi ha detto se mai venga se, che le faccio un regalo, e me l'ha regalata. Hai visto, hai fatto bene. Ma chi si andava a vedere, li vanno un prigione. E ce dovrebbe avere anche quello di Viale Portotorrice, dietro il rifornitore, che io l'ho visto lì. Dietro il rifornitore? Io l'ho visto da alla micro, da cosa, da Paolo Geli, e costavano, sì, un bel puro. Come ti vedi? Ma non preso Giovanni, quindi anche se ne devi rampano oggi con preso. Esatto, basta conservarli. Vabbè, adesso sono messi lì all'ingresso, mia moglie, adesso, alle bestinne. Vediamo se siamo Bacchisio entrato, Bacchisio al telefono, avanti top. E li metti in esposizione in uno scaffale, in qualche luogo. Ma tu vai a farli vedere che virai. Già sono ben sistemati. Ma quella foto non mi è mandata, ma zio, mi sei secca lì. A chi? Vediamo un po' se ti ascolto. A me ascolta adesso Mario. Come? Guarda se mi stai ascoltando. Ah, solo a Marino senti. A Marino sì, a Tore sì, a me non mi senti. No. Strano, ma vero. È vero. Signor Battista, sei basso, ti hanno detto che sei basso. Ah, ma è rivolto in occhi. Allora, dai, devo dire che sei basso, sei zona neutra. Come lo vedrai tu? Un attimino vado su a cambiare l'antenna. Vabbè, Marino, Marino. Ehi, hai fatto sentito. Dove ne dai? Mario, continuiamo sulla radio, vado su a cambiare antenna. Attento, dottore! Ehi, dai, riprovo fra un po'. Riprendi Mario, vado un attimo su. Ok, va bene, Bacchi. C'è stato... Attento, dottore, avanti, Luca! Attento, Marino! Guarda, la sta di voce squillante che va. Ah, e te ce l'hai, Mario? È vero. Allora, buffonelli. Sì. Lauretto si è caggiuto, Luca. E lui? No, sarà Lauretto. Magari, che tu ti intendi? Ti sento male comunque, Luca. O ti blocchi? Mi senti, Marino? Adesso sì, Luca. Adesso ti sento abbastanza forte. Ma poc'anzi negativo, non ti ascoltavo. Tu hai detto, Lauretto si è caggiuto. Io ti ho risposto, ma devo ti intendi? Ah, poverino, sta scherzando, Luca. Aspetta, Luca, c'è anche un Mario, vediamo, guarda se l'ascolti Mario, avanti Mario, attenzione Mario, se l'ascolti. Boh, Mario, mi senti? Adesso ti sento, un po' in mezzo a correre, comunque ti sento. Aspetta, vediamo se Tore ti ascolta. Tore, hai ascoltato Mario? Sì, che l'ascolto. Ma tu da poco fa che l'ascoltavo bene, è forte pure. Certo, ma chi si è che non l'ha accolta? Già si è detto che ha messo l'antenna, ma chi si è, dai. Bene, avanti Luca. Ebbene, tutto piazzato avete. Tutto fatto. Vediamo un po' se mi ascolta me Mario. Mario, mi senti? Ma sei in zona? Io sono qua, a Santa Maria di Pisa. Ah, ok, dai. Già riesco a tirarti fuori, non c'è problema. Comunque da questa parte Luca, dai, avanti tu. E a me già è da poco fa che lo sto dicendo, Luca, che mi ascolta forte a me. E Bacchisio che non ascoltava. Ci bisogna fare il regalo di Natale, mi. Aiuto, facciamo colletta, dicembre gli regaliamo una radio nuova. Una radio gli avvirà, è l'antenna che non anda. E antenne, Bacchisio, da qui da capo, no. Non ha bisogno di antenne, Bacchisio, l'hai preso. Aspetta, piazza l'altra, adesso. Lo fa vedere lui che facciamo, Bacchisio, to. Avanti, Bacchisio. Arriva adesso, beh, Marino. Vedi, hai sentito a toi, tu hai trovato un'antenna, Bacchisio. Niente, Bacchisio, qui ti accabbo. Mario, guarda se ascolti, Bacchisio, adesso. Mario, mi ascolti? Attento, Mario, non ho sentito nulla. Avanti, io non posso ti ascolto. No, l'hai sentito tu. Sì, a momenti l'ho sentito. Ah, vabbè, adesso no. La macchina c'ha dell'esterno, c'ha o dentro casa? A spalle, capito. E tu marito come va? Aspetta, sto promodulando tutti e due. Te dello tempo. Ma te ti ascolto bene, Mario negativo adesso, negativo. Ma sto usando l'antenna interna e esterna, ma chi? Interna, il portatilino, quello che ci abbiamo in macchina noi. E allora domani fai un'antenna esterna, è meglio, dai. Sappiate il terrazzino e ciccia. Vediamo se riusciamo in questo momento il passaggio. Avanti Mario! Oh niente, ho visto la portante ma modulazione zero. Luca avanti! Luca è andato a farsi un panino, avanti da chi? Aspetta un attimino, Marino, cazzo, stava modulando, forse non raccosci. Stava modulando, non so se Bacchigio ti ascoltava, Mario. Aspetta un attimino. Bacchi! Ehi, ehi, l'ho sentito in mezzo al QRM. Spostati Mario verso il poggiolo di facciata. Ma ci sei? No, nulla, dottore, non lo sento per niente. Zero, riporto zero. No, non ha modulato, Bacchi. Deve essere che gli sono mancate le batterie. E dice che se ne stavano andando le batterie. Non lo so. Mario! Ti stava chiamando Bacchigio, non lo so se l'ascolti. Ma dove va Bacchi? Ha detto che non ti ascolta. Per niente. Ok. Riprende Marino. Io adesso ho visto la portanza, ho sentito qualcosa, ma non a livello QRM, sinceramente. A livello QRM. Bene, bene, vediamo se Bacchi riconviene fare un quarantennino e se lo mette in terrazzino, Bacchi. Tipo quelle piccoline. Se lo mette in terrazzino, lui intanto è alto all'esterno e va bene. Avanti, Luca. Luca, non mi prendi, avanti, Bacchi. Ehi, ehi, ehi, infatti, vi ho fatto vedere stasera una piccola antenna. Ma io ho peggiorato o meglio, ho migliorato? Ma tu la vedi abbastanza bene, hai migliorato adesso. No, adesso ho cambiato antenna, capito? Ho cambiato antenna. Però non so se hai indovinato il calvo. Tore, come mi ascolti tu? No, io già ti ascolto forte, io ascolto a tutti quanti, ascolto. Anche a Mario forte ascoltavo. Però a voi non so se l'ascoltate a lui. No, a momenti io l'ascolto, a momenti no. Ma Mario, la direzione tua, capito? Da casa di Mario vediamo il latte dolce, pulito, pulito. Allora dovresti ascoltare, a meno che non si è messo in una zona buia. E anche quello c'è. Bene, dai, riprendi un attimino, ma sento un attimo veramente su. Ok, ok, riprendo io. Cambia il cavetto. E bisogna si mettere l'antenna esterna, perché con qualcosa, con il gomino, secondo dove stiamo durando non si sente, non si sente. Luca! Luca deve darsi in magnendi, a tutta andata. È vero! Ehi, e cosa vai in bocca? Una boccaccia in bocca vai. No, sto mangiando dal baracchino, stanno facendo le prove in FM, perché Natalino disturba in AM, capito? Io sto ascoltando, sì, in effetti adesso in FM non c'è né QRM né nulla, eh. La modulazione è bella pulita, sono in ascolto anch'io. Mi sento. Questo è FM, avanti do. Ma se disturba in AM disturba anche in FM, non ti preoccupare. No, in FM non disturba detto. No, vai strano a me. Così stava dicendo, in FM non disturba. Allora c'è un tecnico in quel canale, dunque gli ha spiegato anche lui. Hai capretto? Sì, già ho capretto, sì, io. Non esogo. Vuol dire che fa l'antenna che è mezza esaurita. Andiamo bene, andiamo dopo. Luca, maniato hai. Luca va ancora la bocca in bocca. Vediamo a Mario, Mario, mi ascolti, sì? Sì, Bene, Mario, in questo passaggio c'è il suo pulito. Beh, la modulazione è chiara chiara, poiché anzi è a livello QRM. No, perché io sto usando una lentiva, non è puntata verso Sassa, di capito. Vediamo se Bacchisio scavo, Bacchisio. Sì, avanti Mario per Tore. Ok, io lui. Vedi, un attimo, Otto, vedi adesso in questo passaggio non ti ha ascoltato. Arriva il segnale forte, ma la modulazione zero. Perché se tu ti muovi, sparisce la modulazione, capito? È una frequenza un po' strana questa. Perché la modulazione è pulita, pulita, pulita. È come ieri a fianco a me. Ok, avanti Tò. Io l'ascolto benissimo. In qualsiasi punto che ci metto l'ascolto benissimo io. E secondo la posizione, Mari. Tu l'ascolti benissimo a chi vai dalle cimanni. Tu sei orecchione, sento. Ma con chi ti ascolto benissimo? Ti ascolto tutti quanti, io ascolto. Non te lo dico, ma vediamo se c'è Bacchisio. Bacchisio, Bacchisio da ritratto, avanti Mario. Come zona il monte, però a lui proprio non riesco a sentire, non mi fa niente. Deve essere che in zona, deve essere che c'è qualche palazzo che lo copre, ecco perché non l'ascolti. Non è libero, come sono io. Sicuramente sì. Attenzione, signor Bacchisio. Sento il suo cambiare il cavetto, Otto. Sento il suo cambiare il cavetto. Su c'è una centrale, Bacchisio, capito? C'è una centrale elettrica. C'ha 2000 cavi. C'ha 2000 cavi, dunque deve trovare il cavo giusto. Avanti, Otto. Sì, andemmo. Bobbo. Catta, con 10.000 aggavi non ha ciappa uno che andava. Già la trovo, va tranquillo, piano piano. Ci vuole pazienza, Tone. Ci vuole un po' di pazienza. Se tu sei ricoglionito, mica anche lui deve essere ricoglionito. Vero, Mario? Perché Tone è ricoglionito, orecchione anche ricoglionito, Tone. Disgraziato che sì, come ti fai sentire proprio? Andare, dammi la domanda a che cosa? È dro di Gheo. Già lo sai tu che ti voglio bene. Già ne sai dove si esce. Vediamo se Bacchisio ha sistemato. Bacchisio? Ancora nulla. Ma Mario arriva, un segnale forte, solo la modulazione, tutta disturbata, c'è il mondo QRM. Boccarti Mario, la modulazione è bella pulita, pulita, pulita. Siccome che si è spostato leggermente e ha perso tutto. Bene, Meda, Luca è sempre a bocca piena, avanti Mario. Sono sempre la stessa posizione, non lo so più, non saprei cosa dirti, forse vi ripeto, sarà un problema di batteria. No, non è problema di batteria, perché a me stai arrivando forte, non è problema, perché c'era stato problema di batterie, cominciava la voce a mancare, ecco cos'è, invece mi arrivi forte. Sia di radio che di modulazione e di segnale e quindi già stai uscendo bene. Io come sto uscendo? A pezzi? Ha detto che Marino sta uscendo a pezzi, come lui. Cosa non fa vedi? Farà di sera a radio. Ne stai approfittando perché sono più piccolo, eh? La scusa, sono piccolo e stai approfittando. Non ti pigliamo qui laggiù, questo. Non t'andò bene, no. Andò bene, dai. Sarà la prossima buccia. Vediamo se il signor Bacchisio. Bacchisio ancora non è pronto. Ma c'è Maria stasera, non è entrato tu. Cosa ne so? No. Sarà occupato, bisognava, ci avrà gente in casa. Ok, poi magari se ci siete già entra, vai. Avanti Mario. Ok Mario, alla prossima ci sentiamo, poi devi andare a lavorare, non ci andare a lavorare oggi che c'è sciopero, non ci andare. Ok, ciao Mario, ben sentito, alla prossima se coincide, dai, avanti tu. Aspetta, vediamo se mi ascolta adesso. Mario, vedi adesso. Oh Mario, guarda che Bacchino si sta chiamando, l'hai ascoltato? Ho cambiato antenna, vediamo un po'. No, scusami, quella specie di bombolaio, Peppe Giuseppe, ma schiaccia tutti i cavi. Che Mario, Bacchino, l'hai ascoltato? Bacchino, ha detto di salutarti Mario. Ci sentiamo alle prossime che si sta preparando, che deve andare a lavorare. Ehi, ehi, va benissimo Mario, a domani. Ma c'è un casotto di file e filetti, domani di giorno bisogna mettere a posto. Siccome i corsi per il tutto sono come sono le bombole, quando ha portato la bombola tutto mi ha schiacciato, tutto sotto si è a posto. E chi è questo? Tuo zio. Mio zio, guardate, mio nipote lo adesso. Ehi, aspetta quando lo trovo adesso. E quando porti la bomba lo metti bene, o non ci siamo lì di figli. Comunque Bacchino, ti sentivo meglio poc'anzi, eh? Al buio marino si vede un puntino però. Siamo con un giro di capi che non ho idea. La centrale del portatore. Minimo, comunque come emulazione è una bella più chiara poc'anzi, ti porti un fischio adesso, un fischio di quel re, mi avanti tu. Ogni tanto ti porti il fischio, quando stai chiudendo ti porti un fischio. Oh, vuol dire c'è qualche canarino? Cos'è, un verdone, un pappagallo? Sicuramente c'era qualche verdone. Ora che calzettina. Non gustare che siete. Non è gallettina, è un verdone, ma che fa sempre di fruscio. Aspetta che c'è un po' di fruscio, c'è un po' di fruscio. Ma chi c'ha? C'è la centrale del fiume Santo, tu, capito? Ehi, domani o sabato accendini il fuoco di Sant'Antonio a Orgosolo. E a Orgosolo, anche ai punti. Oh, anche ai punti lo fanno. Allora vatti nella favata. Ogni anno lo fanno ai punti, to. Ogni anno, sì, fanno una favata, sì. Ma se devi andare, metti la macchina alla terroccia e vai a piedi, però, perché sono le ciappe? Io non faccio di fare anche io, non c'ho di scendere, no. Ehi, vabbè. Ci va nel mondo, ogni anno ci va il mondo. Mi sa che sabato, mi sa che sei subito, mi pongo l'ugano in macchina, e andiamo a fare una passeggiata da Orgosolo. Ah, ma qui chi vede a mangiare bene? Anche pure no, chi vede, tutto a pagamento, non è gratis, se no. Se devi pagare sempre. Comunque Orgosolo è già una cosa diversa, là proprio si... è più... ben finita, diciamo. Sono in chibi, sei attacchi a B, assaggi a vino. Ne torri in mezzo andato, ne torri. Sei tu per quello, sai una cosa, ti prendi la canalese e la metti in macchina, se in caso non ce la fai guidare, parcheggi e ti piazza la canalese, dormi. Sì, aspetta, dove è? Faccio un freddo in chibi. Aspetta. Beh, è freddo, ti piglia un buccione fino a ferro, ma è tanto una giocciata. Così di zazza, la glicemia ristelli di zazza. Andiamo a Ho più una cosa mi rilassa, mi do. Scusa. Sì, vabbè. Un assaggino, che un assaggino che dà. E ne do rito dove tu fatto. Ma la tua signora la guida? No, è chi c'è Romaro. Ah, non guida? Ma fischio ce l'è. Ehi, a signor Bacchi. Alla fine te lo fa. Ancora? Non è malato lo raggio. Adesso non te l'ha fatta, adesso che è chiuso non te l'ha fatta, però poco fa sì. Parla uno di ganarini e come ti che si avvendi rubo. Ehi, i ganarini vedo, boh. Rubo. Marino, adesso bene mi ascolti male. No, ti sentivo meglio poc'anzi, Bacchi. è sempre, boh, sempre quel re me sotto ti sento. Addirittura, ora ve lo vediamo, allora. Andiamo sempre più male. Io poc'anzi, lo sai, tu attore puoi sentire bene, ma qua sei più, è più lontano che sono io. Poc'anzi, l'ho detto che ho detto, ti ascoltavo benissimo, invece adesso sento la modulazione col QRM, è un po' disturbato, ho capito? E sento anche qualche canarino, un verdone, non so, una gallina sottofondo, boh, però to. Una cosa del genere si porta ogni tanto, boh. Non lo saccio, Bacchi, guarda che non sia sotto al tavolo mio quel verdone. Verdone, ci sei? Sì che ci sono. Ascolti, signor Bacchi. Ma ripeso una vemmo, Oh, magari sta collegando. Tone, guardate come mi siete bene, adesso cambio cavo d'antenna, guarda. Sta con questa, sta con l'altro, vai. Invece chi è migliore, o la prima o la seconda? Guarda in questo passaggio, uno, due, tre, prova. No, sono tutte e due buoni. Sono tutte e due buoni, Mari. Ah, ok, dai. Questa è l'antenna proprio, l'antenna. L'altra è la direttiva, diciamo, ora. Vabbè, adesso facciamo questa, va. Andiamo a vedere. Bacchisio, questa è la X30. Oh, quella bianca. Ora io, mi senti adesso? Forte e chiaro. E con Rumino sto andando adesso. C'è i radioamatori che occupano la frequenza. No, da me è sempre peggio, ma chi? Peggio? Questo è bianca, non tre radiali, capito? Col gommino sono marino, col gommino, perché senti cosa c'è nell'altro coso. Eia. Ma dove non sta Bacchi? Io non ascolto Bacchi, come fa? Era proprio peggio ancora. Aspetta, ci sono i radioamatori, Marì, che ti coprono. L'ha detto, io l'ho ascoltato. Ha detto che ci sono i radioamatori che ti coprono, ma no, non può essere che entri nella frequenza in PMR. No, deve schiacciare, cambia la frequenza, anch'io ce l'avevo poc'anzi, ma chi? Cambia la frequenza, che ti risolvono. Se no non capisci nulla, se no. Anche a me poc'anzi entravo, ma ho cambiato. Metti in B, metti. Signor Bacchisio, metti in B. Metti in quello che ti piace. Entrano loro, dottore. Capito? Ma è questione d'antenna. Adesso boh, al buio non si vede. Domani di giorno sistemo tutto. Se no stiamo tutto. Sì, ti ha regato che sono due canarini ti ha regato appresso. La batteria se ne sta andando, andata. Allora forse è quello mi Bacchi che ti stai portando appresso. Un'attacca c'è solo un'attacca, fra poco vedrà bau bau. Allora vi dico, prima di se ne vado vi saluto e ci sentiamo domani. Capito Tore, salutami a Marino se mi ascolta, ci sentiamo domani. Ok, va bene signor Bacchi, ci sentiamo. Oh Mari, Bacchisio ti saluta, sta chiudendo perché la batteria se ne andenne, prima che si spenga. Ok dai, ciao Bacchi, ben sentito, là, domani se coincide. Bene, avanti, to. Hai compreso Bacchi, Marino ti ha salutato, ok. Ci sentiamo domani se tutto andava bene. Ok, ciao Bacchi. Vabbè, Bacchisio ha chiuso. Marino, andiamo bene, andiamo. Dai. È un casotto America, to. Sì, basta lasciare la pillina America. Noi siamo in Sardegna, siamo lontano dall'America e non se ne ha fatti nulla. Ho detto, no, con la foto non l'hai fatta, no? Sei un testone, sì. Fammi la foto che ti ho chiesto. Ti voglio vedere, lo voglio. No, me ne sono dimenticato che ero venuto a Saragosa, ero venuto. Me ne sono talmente dimenticato. Domani mattina te la mando. Lo faccio e te la mando. Ah, ce l'hai lontano, ce l'hai. Ce l'hai lontano, così. No, c'è mia moglie che sta usando il mio telefono. Ah, ok, basta così. Ok, domani mattina lo fai, no? Domani mattina. E qual è quello che hai preso da Giomaria, così? Sì, ma lo so godendo, dico no. Non lo do. No, non ti sto dicendo che stai dando. Se autorizza quello che prende a Gio Maria, sto dicendo io, quello lì voleva la foto. Ti mando la foto e poi lo vedi. Certo. E ci riceve bene, esce bene e tutto. Andate. Cos'è? VU, no, giusto? Cos'è Mari? VU. Ah no, io so già esci abbastanza bene. Anche i portati riescono bene. Ok, cosa fa? VU? Tutte e due. E quale portato ti stai dicendo? Sì, quei due neri, anche quelli escono bene. Io non ce l'ho stesso, io ho quelli cinesi e va benissimo. Sono cinesi, vanno ottimi. Io da casa di Sede Claudio e così via. Allora, questo che ho visto di Zanonese è come il gemello di Battisio. È il gemello di Battisio. No, io l'ho tolto, l'ho ordinata, ci pagano 11,99 €. Quanto? 11,99 € l'ho pagato. Già va bene, dai, per quello stiamo usando noi intanto, io, anche troppo c'è. Certo. E ho cambiato la frequenza, gli ho messo la frequenza di PMR. L'ho cambiato perché anche se c'era l'altra frequenza c'era. Io capisco, pure questi qua sono l'hanno cambiati. Io ho preso l'amico, l'ho fatto quello, l'ho già cambiata, capito? Mi scatolato, però lui ho preso e me l'ha cambiata. Vanno benissimo. Io ce l'ho salvata la frequenza che c'era. Hai capito? E ce l'ho nel computer, ce l'ho. Ma l'hai scaricata nel computer? Sì. Ma che frequenza era? Non era di qua, tedesca, cosa ho cinese? No, c'è l'altra frequenza delle... come ti si chiama? Ma non me ne ammetto. 333 mi pare. Una cosa del genere comunque. Ho capito. Va benissimo, anda a vedere. Perché lo utilizziamo noi, viene finita il gruppo, viene. Infatti. Andiamo. Ma moglie mi ha fatto vedere, un fuoco di Sant'Antoni. Mi chiederà da mangiarmi, insomma, buonasera. Ma amico, faranno. Sì, buonasera signor Gio Maria. Gatta, ma voleva entrare. Impegnati, impegni ci sotto. È per quello. Comunque, prima di andare a mangiare ho deciso di un po' accendere che c'è, ho sentito e ho fatto la battutina. Comunque, per domani a notte a Pozzuè, vai. La giuvista va. Mari, preparate lo d'arreno che piove domani notte. Andiamo bene. Vabbè, io ne approfitto che mi sociamenti e abbozzi. Ci sentiamo domani se tutto andrà bene. Ciao Gio Maria e ciao Marino. Ok, ciao Tobbe, sentito, sono in casa, a domani se coincide. Buonasera, signor Gio Maria, avanti. Ok, ciao, ci sentiamo domani, va. Se piove, mi sono comprato la paracqua, non mi sono problema, va bene. Ciao, buonanotte. Mari, tutto bene? Tutto non bene, benissimo. Cioè, questa voce così squillante che mi dice tu... Assolutamente, Gio Maria, fortissima come forte. Non ho capito niente, Mari. Non ho capito, Gio Maria. Che romani, non ti ho capito cosa hai detto. Cioè, questa voce squillante, mi arrivi proprio forte come modulazione, bella forte. Perché mi ha fatto un po' di spinaci a pranzo, è per quello. È per quello. Mi sembra la modulazione, ti ricordi che ho fatto la domanda che ho fatto il Calvino? Mi sembra che la modulazione è bella forte. La battessi? Grazie da capo, oggi è funzione di me, anche ogni tanto si accascia il suo portatile, capito? Si vede che oggi è stato a capo. Vuoi andare conto se mi penso a Manzano, aggiorni. Bene, tutto ok oggi, sì, sta a posto, in campagna sei sceso, no? No, in campagna, sono sceso l'altro giorno, insomma, parecchio. Non ne ho voglia, ma io, perché qua dove c'è bene ci scendo, quando lo... se la piglia e soccorso la campagna, cosa vuoi fare? Ok, vai, va, chiudiamo, vai, ci andiamo a mangiare. Ciao Mari, saluto in casa, a domani se tutto va bene. Ok, Reggio Mari, tutto è cambiato al 100, soprattutto anche per te, a te e la signora. Bene, domani se coincide, anch'io chiudo, dai. Anzi, ma rimango 10 minuti di ascolto, sono andato a frequenza e poi chiudo, tanto ancora non mi ha chiamato. A domani Giovanni, buonanotte, buona cena. Ok, ciao, buonanotte.